Michele, Michele, l'ultimo, poi sentiamo l'avvocato Ponticello, si è preso appunti. Michele. Sì, buongiorno Nicoletti. Senta, lei è il paradosso dei paradossi, le hanno rubato la macchina. Sì, le hanno rubato la macchina, 30 giorni dopo c'è stato il verbale di riconsegna dei carabinieri, nel frattempo i ladri hanno preso una multa per eccesso di velocità, ho fatto ricorso al giudice di pace di Maranello. E ha pagato. Quando è arrivata la risposta, ho dato per scontato che avesse accettato ovviamente l'annullamento della multa. Invece? Ho scoperto dopo che invece mi aveva dato torto e ho pagato il doppio della multa. Questo è